Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo mercoledì 9 ottobre. Da oggi siamo un po' tutti meno rappresentati in Parlamento nella democrazia italiana, ma questo viene festeggiato come il taglio ai costi della politica. Di questo parleremo ovviamente in rassegna stampa, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati con il consueto appuntamento con il notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie dal mondo, oggi dedicato in particolare alle notizie dall'Europa e dall'Africa. Noi cominciamo con l'Africa, cominciamo con il Mozambico, dove la polizia ha ammesso le responsabilità dei suoi agenti nell'omicidio di un osservatore elettorale, omicidio avvenuto lunedì. Ieri il portavoce del Comando Generale della Polizia ha spiegato che 4 agenti e un civile sono sospettati di essere coinvolti nella morte di Anastasio Matavel, ma non ha anticipato possibili motivazioni. Un rapporto dettagliato, promesso, verrà presentato entro 15 giorni. Il Mozambico andrà alle urne il prossimo 15 ottobre. Matavel faceva parte di Peace Room, organizzazione per la quale svolgeva il compito di osservatore elettorale. Intanto la missione di osservazione dell'Unione Europea ha chiesto ai leader dei partiti politici di prendere provvedimenti per fermare la violenza elettorale. Dall'inizio della campagna elettorale sono 38 le persone morte. Algeria, la polizia è intervenuta ieri per la prima volta nel tentativo di bloccare le manifestazioni studentesche del martedì, arrivate al loro 34esimo appuntamento. Diversi studenti sono stati arrestati, secondo il Comité National pour la Libération des Détenus. In tutto ci sono stati 14 arrestati, di cui 13 erano studenti. Tra i fermati invece anche un giornalista di El Watan, poi rilasciato. Il movimento Iraq, nato a febbraio, esige l'allontanamento dal potere di tutte le figure legate all'ex presidente Bouteflika, che è stato costretto alle dimissioni ad aprile. Le Nazioni Unite hanno annunciato che assisteranno il ritorno di circa 4.000 rifugiati congolesi in Angola. Un'intesa per il rimpatrio era stata firmata il 23 agosto scorso tra Angola, appunto, Repubblica Democratica del Congo e l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Già questa settimana avverranno i primi rimpatri. Nigeria, sono 2 docenti sospesi dopo la messa in onda di un documentario della BBC che denunciava le molestie sessuali nell'università di Lagos in Nigeria e in quella di Legon in Ghana. Mentre le autorità ghanesi non hanno ancora emesso alcun provvedimento, quelle nigeriane hanno espulso 2 dei professori coinvolti nella vicenda e per i quali c'erano prove evidenti del loro comportamento. I docenti, secondo quanto riporta il documentario, chiedevano prestazioni sessuali in cambio di favori amministrativi. Dal documentario è emersa anche l'esistenza di una stanza nell'ala dell'università riservata ai professori, dove i docenti portavano le studentesse per atti sessuali. Tunisia, Nabil Karoui, il candidato alle presidenziali, tuttora in carcere, ha chiesto per bocca del suo avvocato il rinvio del secondo turno elettorale previsto per il 13 ottobre. Karoui contesta che non gli sia stato consentito di svolgere campagna elettorale. Il ricorso degli avvocati è stato depositato ieri mattina al Tribunale Amministrativo di Tunisi, ma non si sa quando ci sarà la decisione. Malawi, un poliziotto è stato lapidato a morte ieri nel corso di scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti dell'opposizione che tentavano di impedire la tenuta di una riunione pubblica del presidente Mutharika. Ruanda, il predicatore evangelico statunitense Gregory Shuf Bryan è stato espulso dopo che lunedì era stato arrestato per disturbo dell'ordine pubblico. Il predicatore è stato espulso in quanto immigrato privo di permesso di lavoro, dopo che lo scorso anno era stata revocata la licenza alla sua radio a causa di un servizio trasmesso nei mesi precedenti in cui denigrava le donne accusandole di essere agenti del demonio. La sua chiesa è stata chiusa, intanto come molte altre chiese, nel febbraio dello scorso anno per non avere i requisiti minimi di agibilità. Il permesso di lavoro del predicatore era scaduto a luglio di quest'anno e non era stato rinnovato, visto che senza chiesa e senza radio non c'erano elementi per il suo lavoro come missionario. Le autorità tuttavia non l'avevano espulso subito, visto che aveva promesso di partire, ma dopo che lunedì è intervenuto distribuendo dei volantini in cui accusava il governo di aver preso posizione contro Dio con le sue pratiche pagane perché nelle scuole viene insegnata l'evoluzione, vengono distribuiti profilattici e sono consentiti gli aborti, le autorità per l'immigrazione hanno deciso che era venuto il momento di metterlo su un aereo a destinazione Stati Uniti. C'è un'altra notizia però che arriva dal Ruanda, il paese è diventato il primo a produrre un proprio smartphone in tutto il continente. Ieri è stato infatti lanciato lo stabilimento Marafone, che non è un impianto di assemblaggio ma è proprio di produzione. La struttura è stata finanziata con 50 milioni di dollari e garantirà per ora la produzione di due modelli del costo rispettivamente di 130 e 190 dollari, pagabili a rate, ha precisato l'azienda. La produzione attuale è di 1000 telefoni al giorno con 200 operai alle dipendenze, che dovrebbero diventare 650 regime, così come a regime la produzione dovrebbe essere di 1 milione di pezzi l'anno da esportare in tutto il continente. Früh morgens, ich habe ja gearbeitet im Krankenhaus, haben wir uns schon unterhalten, heute gehen oder nicht gehen. Lieber nicht, ich habe schon die Wasserwerfer gesehen. Oder doch, heute. Era il 9 ottobre del 1989, la consueta manifestazione del lunedì fuori dalla Nikolai Kirche, con la paura di un intervento massiccio della polizia. Invece, quel giorno a Lipsia, per la prima volta da quando erano iniziate le Montags Demo, la polizia non intervenne. I manifestanti si spinsero fuori dai confini della piazza, invasero il ring, l'anello che circonda il centro cittadino. La polizia non li fermò nemmeno all'altezza della stazione. Il capo della polizia diede l'ordine di lasciarli passare. Quel giorno finì ufficialmente la DDR, il resto sarebbe venuto dopo. So begann. E siamo dunque in Europa, dove sono proseguite anche ieri le manifestazioni di protesta del movimento Extinction Rebellion, nella settimana di mobilitazione che coinvolge 60 città di diversi continenti. A Parigi è proseguita l'occupazione di Place du Châtelet e del Pont au Change. I militanti vogliono restare almeno fino a oggi, così come i loro omologhi tedeschi che stanno bloccando diversi punti di Berlino. Circa 600 persone hanno bloccato ancora stanotte uno dei punti nevralgici della città, la Grosse Stern. Ieri la polizia è intervenuta per portarli via di peso, come si può vedere nei numerosi video sul sito tedesco dell'organizzazione ambientalista. Nella capitale tedesca, dove oggi è previsto il voto in Parlamento del cosiddetto pacchetto clima, i diversi blocchi hanno coinvolto circa 3.000 manifestanti. In Belgio le manifestazioni si sono svolte lunedì, ma nuovi appuntamenti sono previsti nelle prossime ore. Manifestazioni lunedì anche a Amsterdam, mentre oggi sono previste manifestazioni in Moldova. Portogallo, il presidente della Repubblica ha nominato ieri nel tardo pomeriggio Antonio Costa, leader del Partito Socialista, nuovo primo ministro. Nel comunicato apparso sul sito della Presidenza della Repubblica si legge che il presidente, a seguito delle elezioni parlamentari di domenica 6 ottobre, dopo aver ascoltato in termini costituzionali i partiti ora rappresentati nella nuova assemblea e tenendo conto dei risultati elettorali, ha nominato il dottor Antonio Costa, segretario generale del Partito Socialista, come primo ministro del 22esimo governo costituzionale. I tempi saranno comunque lunghi, visto che per la proclamazione dei risultati potrebbero volerci ancora giorni, mancano infatti ancora gli scrutini del voto all'estero. Intanto il presidente del Partito Socialista, Carlos César, ha detto di augurarsi un governo stabile che duri l'intera legislatura o almeno fino alla presidenza portoghese dell'Unione Europea prevista per il 2021. Nessuna preclusione alle alleanze, che potranno essere sancite da accordi scritti o verbali, dunque o piena integrazione nell'esecutivo o appoggio esterno al governo, e comunque decise di volta in volta sulla base delle leggi da discutere. César ha anche riconosciuto che l'astensione record del 45% è un problema che la politica deve affrontare, così come va affrontato il fatto che per la prima volta un esponente dell'estrema destra è entrato in Parlamento, raccogliendo a livello nazionale l'1,5% dei voti, ma arrivando in alcuni seggi a cifre più consistenti. Nella sola Lisbona 20.000 persone hanno votato per lui. Fino a domenica scorsa la Portogallo era uno dei 4 paesi dell'Unione Europea senza la presenza dell'estrema destra in Parlamento. Francia continua la protesta di circa 150 sans-papiers che lavorano in diverse imprese dell'Île-de-France ma i cui diritti non sono conosciuti. La protesta è iniziata il 1 ottobre. I sans-papiers chiedono ai datori di lavoro la regolarizzazione dei loro contratti necessari per ottenere la carta di soggiorno e hanno occupato i loro luoghi di lavoro per averla. A loro fianco si è schierata la Confédération Générale du Travail, nonché numerosi artisti, proprio nel momento in cui all'Assemblée Nationale ci si appresta a discutere la legge sull'immigrazione. Germania, la polizia attende oggi per rilasciare dichiarazioni in merito a quanto avvenuto ieri a Limburg, dove un camion ha investito diverse auto e causato 9 feriti. Per il momento, come ha spiegato ieri in conferenza stampa il governatore della regione di Limburg, nonostante le modalità ricordino gli episodi di Nizza e Berlino, non ci sono elementi che facciano supporre fatti di terrorismo. Il camion era stato rubato pochi minuti prima, quindi aveva fatto poche centinaia di metri, secondo le testimonianze, quando ha avuto luogo l'incidente. Il conducente è stato arrestato. Belgio, un'enorme scultura raffigurante un maiale è stata posta ieri di fronte all'edificio della Commissione europea dei militanti della campagna Exit le Cage, fuori dalle gabbie, che chiede il divieto di tenere animali in gabbia negli allevamenti europei. Quello di ieri è l'ultimo atto di una campagna iniziata più di un anno fa e che ha raccolto 1,5 milioni di firme in tutta l'Unione. La raccolta si è conclusa il 12 settembre. La scultura invece è stata realizzata da un artista olandese sotto il titolo Ode al Porco ed è già stata esposta in 12 città dei Paesi Bassi. La campagna è stata sostenuta da 170 diverse organizzazioni. Si calcola che in Europa 300 milioni di animali siano allevati in gabbia. Il numero di firme raccolte supera il milione necessario a imporre alla Commissione di pronunciarsi sulla questione. E questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di oggi. Io vi saluto, vi lascio con il resto delle rubriche di Radio Bullets per chi ci ascolta online, con il resto della programmazione di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna. Un augurio di buona giornata e appuntamento a domani con Barbara Schiavulli. Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno cari radioascoltatori e benvenuti a quella che ormai è la 20ª puntata del Pinzimonio, accompagnata, come si addice alla stagione, da un po' di raffreddore. Oggi andremo ad approfondire alcune parole che descrivono dei comportamenti di cui abbiamo avuto svariati esempi quest'estate, in special modo nel mese di agosto, e che sono più precisamente cazzimma, arrivismo, arroganza, alterigia e presunzione. Cominciamo con cazzimma, che è descritto come un atteggiamento o comportamento improntato a furbizia opportunistica e cinica, teso ad ottenere il proprio esclusivo tornaconto senza preoccuparsi del fatto di poter in tal modo nuocere ad altri. O altrimenti significa cattiveria, perfidia, malvagità anche gratuita e immotivata. O infine un atteggiamento o comportamento deciso, risoluto o anche aggressivo, interpretato favorevolmente come espressione di forza e personalità. Ovviamente questo ultimo significato può variare a seconda dei punti di vista. Ma che cos'è la cazzimma? Ce lo spiega più precisamente Pino Daniele nel suo libro Storie e poesie di un mascalzone latino, in cui dice: già cazzimma. Chi non è napoletano e non ha mai avuto modo di sentire questo termine si chiederà giustamente di che si tratti. Ebbene, cazzimma è un neologismo dialettale molto in voga negli ultimi tempi. Designa la furbizia accentuata, la pratica costante di attingere acqua per il proprio mulino, in qualunque momento o situazione, magari anche sfruttando i propri amici più intimi e i propri parenti. È l'attitudine a cercare e trovare d'istinto, sempre e comunque, il proprio tornaconto, dai grandi affari o business fino alle schermaglie meschine per chi deve pagare il pranzo o il caffè. Questa è come Pino Daniele efficacemente descrive la cazzimma. Per cui passiamo ad arrivismo, che è definito come l'ambizione sfrenata nel voler raggiungere con ogni mezzo posti di comando, notorietà o alta posizione sociale. Altrimenti arroganza indica ovviamente l'essere arrogante, insolenza e asprezza di modi di chi, presumendo troppo di sé, vuol far sentire la sua superiorità. Nel linguaggio giornalistico, per esempio, è l'arroganza del potere, il comportamento altezzoso, espressante e talora violento che spesso caratterizza chi detiene il potere. Sinonimo di questo è alterigia, che significa ostentata presunzione di sé o superbia. E da qui concludiamo con presunzione, che è innanzitutto un'argomentazione o congettura per cui da fatti noti o anche in parte immaginati si ricavano opinioni e induzioni più o meno sicure intorno a fatti ignorati. Nel linguaggio giuridico e giudiziario invece c'è la presunzione di innocenza, che è il principio secondo cui chi sia accusato di un crimine è da ritenersi innocente finché non ne sia stata confermata, ovviamente a seguito di un regolare processo, la sua colpevolezza. Infine, la presunzione è la fiducia eccessiva nelle proprie capacità, alta ed esagerata opinione di sé, con riferimento a un comportamento particolare e determinato. Io vi saluto, vi aspetto sempre domani alle 9 su Radio Città Fujiko e vi auguro un buon proseguimento di ascolto. Buona giornata. Ascolta il Pinzimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinzimonio Radiofonico. Il Pinzimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. Grazie e buona giornata. Il Pinzimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa, doce balanço, caminho do moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que

good work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Segna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Nove e trenta minuti di questo 9 ottobre, mercoledì, la rassegna stampa che ovviamente apre col fatto del giorno che arriva da Montecitorio e ci vede questa mattina tutti più poveri di democrazia con meno rappresentanza parlamentare. Questo è il risultato di questa vicenda che il Corriere così titola, sì al taglio di 345 parlamentari. La riforma è legge, voto quasi unanime, e quando i voti sono unanimi spusta sempre di bruciato. Solo 14 contrari e c'è già chi prepara il referendum. Conte dice le istituzioni sono più efficienti. Beh, potremmo ancora tagliarne anche 344 e lasciarne una, sarebbe ancora più efficiente, veloce e meno costosa. Di Maio assicura, pesi e contrapesi arriveranno con le norme di accompagnamento, perché c'è da dire che buona parte di quelli che in questo contratto giallo-rosso hanno sottoscritto questo taglio della casta l'hanno fatto sottoscrivendo una cambiale in bianco, cioè prima facendo il taglio, poi aspettando i contrapesi. E speriamo che arrivino, e speriamo che arrivino bene e giusti, perché francamente siamo nell'incertezza più assoluta. La stampa, tutti contro la cosiddetta casta, il Parlamento taglia 345 deputati e senatori, la riforma costituzionale legge, parte il confronto sul sistema elettorale. Poi dopo, se andiamo a grattare sotto questo unanimismo, troviamo che in realtà ci sono mille ragionamenti ricatti incrociati, o così o cade il governo, oppure calcoli di bottega ma dei più infimi. E infatti leggo il reportage di Francesca Schianchi da Roma, fa schifo, è inutile, è dannosa. Tutti la votano e nessuno ci crede. Dal PD a Forza Italia fino al 5 Stelle tanti critici, Grillino tripiedi, non sopporto che la Costituzione sia usata come campagna elettorale. Questo è quando. E se giriamo ancora nella pagina della stampa, parla il costituzionalista Francesco Clementi, che dice democrazia a rischio con la scusa dei risparmi. Il costituzionalista senza correttivi sarebbe una riforma illiberale. E allora Orfini, voto la riforma anche se fa schifo, quindi ha mangiato il rospo, così commentato dal Fatto Quotidiano della cattiveria. Pier Ferdinando Casini invece, passiamo sempre al PD, furibondo per il taglio dei parlamentari, solo demagogia, così i migliori abbandonano la politica, lui infatti rimane. Spinoza nella cattiveria ci scherza sopra, ma è assolutamente la verità, perché saranno liste ristrette chi sgomita il più forte, quindi saranno candidati o segretari di partito o della casta più stretta intorno alla segreteria dei partiti. Tutti gli outsider, i famosi peones, quelli che magari hanno rinnovato il partito con dei voti a sorpresa, verranno tagliati a prescindere. Gian Antonio Stella, dice: oltre i simboli la realtà, e non sia un trofeo da mostrare folle. Ieri abbiamo visto subito i 5 Stelle che hanno tagliato uno striscione con le poltrone. Si tratta di una riforma giusta, però da sola non basta. Allora in teoria la logica vorrebbe che prima facevi tutto il contorno, poi facevi la riforma, invece si è fatto il contrario. Allora si sta come tacchini a Natale, l'autosabotaggio, confusione, amarezza per gli onorevoli che scelgono di automutilarsi. Ci tocca, l'unico modo per ripulirci la reputazione. Il Fatto Quotidiano cerca di fare bella questa riforma o controriforma. Andrea Orlando dice una cosa che naturalmente entra nel Guinness delle sciocchezze: persino Salvini avrà meno parlamentari di quelli che ha oggi, ma siccome c'è il doppio dei sondaggi, Salvini si preoccupa meno, magari il PD forse di più. I pentastellati, i soliti manpalcisti, disertano la festa. Ora c'è il fronte Ilva, quindi basta vedere le scene ieri da Montecitorio per capire quanto tra disgustati, tra insensibili, tra menefreghisti e manpalcisti la cosa, questa grande riforma, va avanti nel vuoto più assoluto. Decine di eletti invitano alla piazza e restano alla Camera. Lizzi attacca Di Maio e la Grillo non va a Italia 5 Stelle. E allora c'è il fronte Ilva, perché diversi senatori pronti a non votare il ripristino dell'immunità parziale, cioè quel decreto per cui l'Ilva, la Mittelorindiana, può anche inquinare tutto il quartiere Tamburi per cimento, ma non è perseguibile. Il Manifesto usa... Il Manifesto usa, mi sono fatto annunciare da un rombo di tuono, ma per il titolo appunto del Manifesto, che invece è molto gastronomico: i maltagliati, con un voto quasi unanime, appena 14 no e 2 astenuti, la Camera appunto ha approvato la riforma che taglia questi 345 parlamentari. PD e LeU votano sì, ma ricordano gli impegni di garanzia ai 5 Stelle, che festeggiano con tanto di forbici. Un linguaggio che parla di gastronomia, ma non solo. Al rituale del sacrificio non manca nessuno, con Di Maio che fa partire la festa. Ma non tutti i 5 Stelle fanno la clac, compatti ma poco uniti, perché appunto già Alfredo citava la Grillina Lezzi che contesta le decisioni del leader. In tanti disertano il flash mob più annunciato della storia, direi, con il capo. La Repubblica che parla di taglio alla Di Maio, con appunto questa approvazione, poi subito dopo il vertice tra Zingaretti e Di Maio su Renzi e le alleanze. Naturalmente questo plebiscito però non risolve gli inciampi, ad esempio ne abbiamo già uno accennato al Manifesto: il ruolo delle minoranze, il rispetto delle minoranze, la definizione dei collegi. Il vero problema, scrive Repubblica, sarà garantire la rappresentanza dei territori, soprattutto nelle regioni penalizzate. Quali sono le regioni medio-piccole penalizzate, soprattutto al Senato? Friuli, Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata e Sardegna. La presenza delle opposizioni in queste aree geografiche rischia di scomparire. Finisce sotto il tappeto di fronte alle nuove alleanze e al patto anti-Renzi che sarebbe stato siglato nel vertice tra Zingaretti e Di Maio. I due leader si sono visti in un circolo sportivo sul Lungotevere, tipo quelli per i canottieri, immagino, per la prima volta da soli, quindi un tête-à-tête. Il voto in Umbria, a cui si andrà uniti anche in Calabria, mentre le rimandate le decisioni su Emilia Romagna e Campania, dove l'accordo sembra più difficile. Tagliano i parlamentari ma aumentano le tasse, questo è il monito del Giornale. Rottamate 345 poltrone per un risparmio minimo, mentre mancano i 7 miliardi per coprire l'IVA, quindi la coperta è corta, dice il Giornale. Secondo Augusto Minzolini la legislatura è in cassaforte, il governo giallorosso no, sicuri che non si voterà, i leader della maggioranza saranno più intraprendenti. Questo è il vaticinio di Minzolini, vecchia lenza dei corridoi parlamentari, mentre il Carlino, a proposito di questo plebiscito, va a guardare la storia, oltre che guardare anche in farmacia con l'amaro calice dei peones, i malpancisti in transatlantico. Abbiamo votato sì, ma che schifo, ovviamente quasi tutti in come dire, hanno chiesto di rimanere anonimi. E dicevo, appunto, guardando però da dove viene questo taglio, il primo a ridurli fu Mussolini, ecco, diciamo, il modello storico a cui richiamarsi, che li portò a 400 dopo la presa di Roma. E adesso c'è la seconda fase, quella famosa mitica seconda fase che solito non arriva mai, cioè i compensi, i bilanciamenti, e subito se leggiamo dai giornali capiamo la distanza tra una forza politica e quell'altra, che naturalmente è una distanza che si misura di giorno per giorno a seconda dei sondaggi che ogni singolo partito ed ogni singola segreteria, ed a seconda dei vantaggi che ogni singolo partito e singola segreteria pensa di ottenere dal Parlamento giorno per giorno. Per esempio il primo è D'Incà, che è ministro D'Incà, delega rapporti con il Parlamento. Noi lacerati sul PD, noi perché 5 Stelle. L'alleanza durerà fino alla fine legislatura. Questo è probabile perché col tempo che c'è da fare queste cose, o comunque col taglio di parlamentari, sarà più difficile schiodarli. Comunque, lei dunque, a proposito di legge elettorale, perché c'è la legge elettorale evidentemente, su che modello intenderebbe lavorare? Lei cosa preferirebbe? Il 5 Stelle? Domanda Buzzi per il Corriere. Per il momento abbiamo firmato un documento con la maggioranza che ci impegna a fissare un iter per fare una proposta entro il 31 dicembre. Noi in passato abbiamo presentato il modello, il Toninellum, che era un proporzionale con piccoli collegi. A noi non importa fare una legge contro qualcuno, ma per il bene del paese. Si parla di uno sbarramento al 5% in caso di proporzionale, che lascerebbe fuori dal Parlamento sinistra italiana ed Europa e più Europa, che tra l'altro è l'unica che si è schierata contro questo taglio dei parlamentari manifestando fuori dal Parlamento, glielo riconosciamo. È a forte rischio anche Italia Viva. Per il momento semplicemente siamo molto lontano dal parlare di sbarramento perché non abbiamo pensato ad un modello. Quindi pensare a un modello elettorale da qui, che è il 9 ottobre, al 31 dicembre. Quindi si trovano un pomeriggio, chiacchierano e fanno il modello elettorale. Però, secondo il retrocino dei Bertini dalla stampa, tutt'altro, altro che proporzionale. Ora insieme con il maggioritario il PD prova a tentare i 5 Stelle. Spunta un'ipotesi di una legge doppio turno nazionale, ma per quale motivo? Perché si pensa che sia più giusto, più rappresentativa, più di uno sbocco moderno? No, ma che? Per rendere ininfluente il partito di Renzi. Si fa la riforma elettorale e costituzionale per rendere influenti il partito di Renzi. Questa è la miseria, almeno secondo il retroscena di Carlo Bertini. Dunque l'obiettivo è fare questa riforma elettorale entro dicembre. Oltre Italia Viva e Libero Inchilo Brugali è favorevole alla proporzionale, chissà perché, forse perché sono piccoli quindi hanno paura di sparire. Questo è quanto. E poi, come già leggeva Piero, c'è la vicenda delle regionali, che saranno importanti per il governo, perché in caso di un malaugurato doppia sconfitta sia in Umbria che in Emilia è chiaro che il governo difficilmente potrebbe rimanere in piedi, e con loro anche tutte le varie riforme elettorali o quant'altro. Dopo l'Umbria si pensa già alla Calabria. Zingaretti e Di Maio trattano sull'alleanza. Cena tra leader in vista delle regionali. Il capo dei 5 Stelle contro Conte si sporchi le mani nelle campagne elettorali. Quindi c'è una sorta di alleanza, secondo almeno questa vicenda retroscenista Bertini, di Capurso, della stampa, Di Maio, Zingaretti, ai danni del premier Conte, mentre Renzi è alla ricerca dell'audience perduta con troppi complotti. Questo è il diario di Malavoglia. L'ultimo voce, l'ex premier fa fuori Conte per fare un governo con Di Maio con la stessa maggioranza. Era lo stesso progetto di Salvini, far fuori Conte per mettere Di Maio uomo di paglia, presidente del Consiglio. Nel frattempo vado invece a Montefalco in Umbria. Tesei, che è la candidata del centrodestra in Umbria, la candidata di Salvini, cosiddetta col buco, è in corsa per governare l'Umbria, ma da sindaca ha lasciato un disavanzo di 1,6 milioni di euro, forse ripagabile in 87 anni senza interessi, chi lo sa. 6.000 abitanti, entrate troppo per 6.000 abitanti, non è male, 1,6 milioni di buco, entrate troppo fantasiose, uscite troppo reali, così il deficit è stato arrivato a valere 286 euro di debito a testa. E allora, a proposito di debito, guardiamo appunto anche che cosa poi sta maturando negli altri vertici. Ad esempio il Carlino ci informa che si sta trattando sul futuro di quota 100. Governo e sindacati orientati a riaprire il cantiere pensioni in vista della manovra per definire fin da ora il dopo quota 100. Nel decreto anche il decreto clima, 5.000 euro di incentivi a chi vende prodotti sfusi. e che naturalmente poi bisognerà un po' capire di cosa si tratta concretamente, dice il Carlino. Spazi dedicati alla vendita dei prodotti sfusi o alla spina alimentari per l'igiene personale. A proposito di Di Maio, che appunto ieri ha festeggiato, Massimo Donelli gli fa un po' le pulci. Falsi poveri e ritardi, il reddito di cittadinanza è un flop. La misura voluta da Di Maio stenta a decollare. Tra i 730.000 occupabili agli SMS dei centri per l'impiego ha risposto meno della metà. Secondo un'indagine della Guardia di Finanza, il 60-70% con la card è rappresentato da falsi poveri. Quindi sarebbero sicuramente numeri non particolarmente lusinghieri, quelli che appunto vengono messi in piedi. Devo dire che sono numeri invece altrettanto disastrosi quelli di cui ci racconta l'Economia del Manifesto. La strage sul lavoro è reale. Domenica si celebra la 69esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Una strage senza fine, anche ieri la morte di un operaio a Lecco. Lunedì un morto e tre feriti su una nave a Porto Torres. Non raccontiamoci favole, sul lavoro non c'è sempre il lieto fine. Il titolo della campagna lanciata dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. E allora dati, replica la ministra Catalfo, Nunzia Catalfo, ministra del lavoro, che dice assumeremo altri 150 ispettori all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ovviamente anche questo è un numero. È un numero a tre cifre, ma sembra, come dire, esiguo per fronteggiare invece appunto questa strage. A proposito di conti, abbiamo altri numeri. 7 miliardi dall'evasione fiscale, questo è quanto il governo prevede di rastrellare. Le incognite di un recupero per la Corte dei Conti, per Banca Italia, insomma tutti insieme appassionatamente, sono risorse incerte perché sono previsioni un po' ambiziose, mentre invece Gualtieri conferma che gli 80 euro di Renzi resteranno e va alla ricerca di nuove coperture. Sì, Gualtieri ieri ha smentito molte voci, rumors, illazioni che erano girati come una tassa sul denaro contante. Dice che saranno solo premiati chi usa le carte di credito, cose del genere. Sta di fatto che tra entrate incerte ci sono anche le spese certe. Per esempio Guerini, ministro della difesa del governo Conte, avanti sugli F-35 che ci costano un occhio della testa a cada uno. Se il tiene la delega ai servizi, il premier rispetta la legge. Il ministro della difesa dà nuovi jet benefici anche economici. E infatti ci sono dei grandi vantaggi agli F-35. Sai quante fabbriche aprono con gli F-35, quanti soldi entrano nello Stato? Tantissimi. Escono tanti soldi che poi finiscono in bombe. Comunque, come al di là degli F-35, il Sole 24 ore parla delle multe e dell'IMU, i comuni a caccia degli evasori, perché naturalmente la stretta è a cascata gerarchica, quindi arriva sugli enti locali, quello devono far da sé la finanza locale stessa. I piani del governo sulla lotta all'evasione imbarcano una riforma complessiva della riscossione locale che potrebbe entrare nel decreto fiscale atteso tra lunedì e martedì. Il principio fondamentale è data dalla raccolta di IMU, TASI e multe, gli stessi strumenti che oggi ha l'Agenzia di Entrate e Riscossione. Tra i filoni principali di intervento, la vecchia ingiustizia sostituita da un accertamento esecutivo, accesso più diretto alle banche dati, addio la notifica con la creazione di un'anagrafe digitale con cui i debitori dovranno verificare la propria posizione. Anche questo naturalmente è un pezzo che viene citato, dichiarato e stabilito, ma se tu vai a chiedere la tua anagrafe nessuno te lo dice mai, perché guarda caso il computer è sempre rotto. Del decreto ambiente atteso domani il Consiglio dei Ministri salta intanto la norma sui sussidi dannosi. E sempre delle serie dove trovare le risorse, sempre dal Sole 24 ore, auto, case e servizi dell'economia digitale con ricevuto scontrini. Per il fisco necessaria la certificazione di ogni operazione, quindi la tracciabilità famosa delle operazioni. Ma c'è una tracciabilità che andrebbe subito sanata ed è quella di varare una web tax. Quelle tasse dove per Amazon, Google o per Netflix che lavorano in Italia pagano le tasse da dove si paga meno altrove. Allora questa cosa torna in Economia e Finanza con Francesco Spini della Stampa. Netflix pagherà le tasse come tutti anche in Italia, speriamo che sarà un pagherà ora e non nel giorno del mai. Il numero uno Hastings, apriremo uffici a Roma. Al via l'alleanza con Mediaset per produrre 7 film. E allora questo qui fa parte del colosso cinematografico, del pool che si va, o delle reti che si vanno consolidando. Nei prossimi 2 anni investiremo 200 milioni di euro per produrre contenuti italiani, speriamo che siano meglio di quelli della RAI. Comunque, nel frattempo abbiamo Alitalia, si tenta la stretta finale, Conte incontra i vertici di Atlantia. Spianca Atlanta ha ricattato il governo, se ci volete in capitale in Alitalia dovete darci le concessioni per le autostrade. Fino adesso è detto che non c'è questo link, ma vedremo se poi alle dichiarazioni la cosa rimane. Nel frattempo Caro Di Foggia e Ruri Iurillo del Fatto Quotidiano ci ricordano appunto i frutti della concessione d'autostrade di ad Atlantia Benetton. Barriere a rischio, il metodo usato da Autostrade per risparmiare 1,2 miliardi. Ecco la lista, dice il Fatto Economico. Da anni il colosso prende tempo e non stuisce di Jersey, cioè i guardrail, su 1600 viadotti. Dopo la strage di Avellino ha cercato di metterli a norma a costi minimi. Lo stop arriva dal MIT, dal Ministero del Tesoro. E a proposito di stop, invece, prosegue anche negli scenari politici che vengono delineati dal giornale, oltre al nodo economia, anche lo scontro sull'intelligence. Allora, mentre il giornale ci riferisce che Berlusconi è a Sochi per il compleanno dell'amico Putin, quindi per festeggiare, c'è, secondo il giornale, un brutto sospetto su Conte. Avrebbe venduto Salvini agli 007 americani. Il premier avrebbe aiutato Trump e ottenuto l'audio di Mosca che inguaia il leghista. E nel frattempo, in questo risico, anche il Manifesto conferma la nuova presidenza del COPASIR, il comitato parlamentare appunto che si occupa dei servizi segreti, e il leghista Raffaele Volpi, candidato messo in campo in extremis dalla Lega in sostituzione di Riccardo Molinari, il cui che era inviso ai 5 Stelle. Volpi era il sottosegretario alla difesa del precedente governo. Conte intanto non scapperà dal dire la verità di fronte al COPASIR, parola del presidente dei deputati Graziano Del Rio. Anche appunto il giornale La Lega la spunta sul COPASIR, il candidato è Volpi, mentre il premier Conte tiene la delega e loda i servizi. Anche la Repubblica da un titolo in prima pagina: Russia Gate, gli incontri segreti tra Conte e il capo degli 007, e quindi entriamo nel fronte delle spie. Parola al COPASIR, con appunto Conte chiamato a riferire sull'incontro tra il ministro della giustizia americano Barr e la nostra intelligence. E Conte però irrita gli ex premier del PD. La versione di Conte sull'incontro tra il capo dei nostri 007 e il ministro Barra non convince Gentiloni e Renzi. Però il fronte delle spie di Repubblica è oggi spalmato su più pagine, perché ci sono anche le riunioni segrete a Palazzo Chigi con Vecchione, che è appunto il direttore, il capo del Gennaro Vecchione, il capo dei nostri servizi segreti, nominato su espressa indicazione del premier. La minaccia del direttore appunto dei servizi segreti di verifiche sui conti dei servizi, e lo scontro con invece Luciano Carta, che dirige l'Agenzia di Informazione e Sicurezza Esterna. Capiamo che ovviamente questo era già largamente prevedibile. Ci saranno, sono in vista delle nuove nomine dentro appunto i servizi segreti, e quindi chiaramente anche queste informazioni, queste talpe che escono con un timing, con un orologio molto preciso, non sono disgiunte proprio da queste corse al photo finish per aggiudicarsi la poltrona più ambita. Sempre in questo intreccio tra politica, economia e sciocchezze a tutto raggio, le sciocchezze toccano a Libero ancora una volta. Lo Stato incassa e non paga, rovina gli imprenditori in credito. Naturalmente Libero si ricorda di questa cosa quando c'è un governo di centro-sinistro più o meno al potere, quando c'è il centro-destra Berlusconi, cancella questo tipo di osservazione, invece non è identica, sia con gli uni che con gli altri. Nel frattempo preoccupa la deindustrializzazione del paese, l'Italia che perde la partita delle lavatrici, è il primo piano del Sole 24 Ore con Paolo Bricco. Ci parla di un ridimensionamento. Questa mattina l'incontro a Palazzo Chigi per Whirlpool, l'azienda napoletana. Nel 2002 l'Italia produceva 30 milioni di pezzi, ora è scesa a meno di 10, quindi ha perso due terzi del lavoro. Il settore teneva il 45% del mercato europeo, mentre ora controlla meno di una vendita su 10, quindi la flessione è ancora più pesante. Le ragioni sono strutturali, secondo il Corriere Paolo Bricco. Costo del lavoro e bassa produttività nelle fabbriche, pari a 20 punti in meno di quelle ceche e 27 punti in meno di quelle spagnole. Naturalmente questo lavoro non è che sia alto, tutt'altro, è che è basso, ma non è abbastanza basso come altrove, dove il costo della vita è molto minore. Questo è il quadro, ma ci porta anche a un dato economico che ci parla invece anche di ambiente, è il fatto economico, il grande affair. L'Italia vuole proporre i BTP ambientali e nel generale mettono green bond. Nel mondo è pieno boom di questi green titoli di valore, ma il sistema di regole resta sulla carta e i controlli pagati dagli emittenti, quindi chi controlla i controllori? Nessuno. Le obbligazioni verdi raccolgono fondi per settori ed ecocompatibili come le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, le abitazioni sostenibili, racconta Nicola Borzi dal Fatto Quotidiano. E ancora, gli emittenti, che siano società private, governi o istituzioni sovranazionali, vendono questi, cioè multinazionali, vendono questi titoli a fondi pensione, compagnie assicurative e fondi sovrani che gestiscono decine di migliaia di miliardi, quindi cifre inimmaginabili. Il primo green bond è del 2007, quando la Banca Europea per gli investimenti lanciò un'obbligazione attenta al clima. Secondo la Climate Bonds Organization, organizzazione non profit globale di certificazione delle emissioni del 2017, ha raggiunto i 162 miliardi di dollari, il 78% in più del 2016. L'anno scorso i green bond hanno raccolto 167,6 miliardi di dollari, quest'anno puntano a un nuovo record. Tutto questo in un mercato selvaggio senza nessun controllo. Questo ci racconta la pagina del Fatto Quotidiano. A proposito di cose che vanno incontro a tendenza, abbiamo per esempio un articolo che arriva dal Corriere che ci racconta Scampia, siamo nella periferia napoletana, la scuola assediata dalla maxi discarica abusiva. Fumi, odori, la preside chiude le aule, i mezzi del comune non passano, cioè quindi non vengono a pulire la spazzatura. Le notizie sono contraddittorie, perché se da Napoli invece vado all'economia circolare di Celestina Doninelli del Sole 24 Ore, siamo ben lontani da Scampia evidentemente, Acea accende 250 mini impianti per la gestione dei rifiuti organici. La tecnologia permetterà di trattare a chilometro zero gli scarti delle grandi utenze. L'amministratore delegato Donnarumma, previsti di 1,7 miliardi di investimenti nel 2022 in sostenibilità. Questo è quanto. Ma abbiamo allora sul clima, si gioca con un'altra grande partita in questo momento, la partita di chi governa la Chiesa Cattolica e se riescono a fare fuori o meno Cardinal e il Papa Bergoglio con l'assedio dichiarato ormai della destra della Chiesa, capitanato della Chiesa americana. E tutto questo nel sinodo sull'ambiente, e allora lo scontro è all'arma bianca, anche se con parole da Boni Fratelli, il cambiamento climatico e il nuovo apartheid di Desmond Tutu, il famoso vescovo del Sudafrica. I ricchi possono pagare per proteggersi dalle conseguenze peggiori, per i poveri non c'è scampo. Quindi non è vero che siamo tutti a rischio, come sempre c'è chi rischia e chi rischia molto meno. E allora però di tutto si parla di ambiente, ormai un articolo sull'ambiente non si nega a nessuno, quindi anche Tempi Moderni della Stampa, nella pagina Cultura, Società e Spettacolo, presenta un dialogo tra Lodo Renzi dello Stato Sociale e Massimiliano Tarantino del Fondazione Feltrinelli. A lezione da Greta, i ragazzi in piazza ci dicono che questo mondo si può cambiare anche nell'era dei social. Questo è il tema che arriva dalla Stampa. Tu balli come un'isola, senza bisogno di scuse, senza farti offrire qualcosa da bere. Dietro ai tuoi passi resta il mare, via. Senza più soldi da pagare, senza mai leggere il giornale, in cerca d'amore occasionale e socialismo tropicale. le tue rivoluzioni, le storie ancora da raccontare solo per viaggiare con la fantasia su un'isola libera di essere un'isola, che fuori dall'isola siamo tutti un po' più fuori, lontano dall'isola siamo tutti più non basta il mare per mettere distanza. E lasciamo allora Lodo Guenzi, ma a proposito rimaniamo però nell'ambiente, perché c'è dalla Repubblica questo processo a Torino per l'amianto alla Olivetti di Ivrea, dove è arrivata la soluzione dei 13 top manager imputati, tra cui anche Carlo De Benedetti, fratello Franco, Passera, ex manager e via dicendo. Quindi la Cassazione li ha assolti. E però a questo punto quindi abbiamo i 12 ex lavoratori deceduti tra il 2010 e il 2013 che sono morti per malattia, però senza non ci sono colpevoli. Questa sentenza sta, dicono gli avvocati del il responsabile di salute e sicurezza della CGIL di Torino, sta creando grandissimo sconcerto, anche perché alla procura di Ivrea continuano a pervenire sempre nuove segnalazioni di casi di ammalati e di morti da amianto. Ma come dire, questo non basta. D'altronde, come dire, non sempre, non solo gli accordi sono sufficienti, perché ad esempio guardo, leggo dalle pagine di Repubblica, migranti, il patto di Malta non decolla, 2 mesi per coinvolgere altri paesi, parliamo appunto di questa ridistribuzione dei richiedenti asilo soccorsi nel Mediterraneo. La ministra Luciana Lamorgese conferma che all'accordo hanno aderito finora solo Irlanda, Portogallo e Lussemburgo, quindi il progetto sui ricollocamenti resta al palo, anche se si continua a lavorare. In queste settimane però la vera emergenza è nel Mediterraneo orientale, dove Erdogan ha ripreso a far partire i barconi in risposta alla crisi delle trivellazioni al largo di Cipro. La Grecia a settembre ha registrato all'arrivo di 11.500 migranti e Atene, appunto come Madrid, appoggia il progetto pilota di Malta, sperando che in futuro si vada avanti, ma non può prendere altri richiedenti asilo. E nel Mediterraneo nel frattempo succede quello che appunto purtroppo non è nuovo. E allora leggo dal Manifesto: testimonianze shock dei migranti sopravvissuti al naufragio di domenica al largo di Lampedusa, così il mare ha ingoiato i bambini, morti soprattutto donne e bambini, 22 sopravvissuti, all'appello mancano 17 persone, tra cui 7 minori e un neonato, le salme saranno seppellite nei cimiteri dell'Agrigentino. E il commento del Carlino, affidato al poeta Davide Rondoni: le migranti senza Unione Europea. Anche dalla Repubblica, oggi funerali delle vittime, il dramma appunto dei sopravvissuti e di chi ha dovuto lasciare appunto i propri figli, o comunque ha dovuto lasciare andare delle bimbe, dei ragazzi, raccontate appunto dalle pagine della Repubblica, con il vescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, che dice: questi morti gridano perché, non sono morti per caso, basta con il rimbalzo delle responsabilità. Mentre Libero, sempre sul pezzo, tra virgolette, ora la colpa del mare se i migranti annegano, perché si nota che c'è mare in tempesta, no? Comunque questo è il giornale di Feltri, che poi riprenderemo subito dopo. Per il momento invece mi fermo al mobbing, famiglia. In realtà Giampiero Rossi del Corriere parla delle neomamme sotto pressione, in 10.000 dicono addio al lavoro, quindi siccome non sono abbastanza produttive, poi devono andare a casa a gestire anche il figlio, vengono se più con le buone o con le cattive, col mobbing, insomma, fatti licenziare. I sindacati, le denunce vengono frenate dalla paura, perché il clima non è certo favorevole per chi vuole in qualche modo appunto far valere i propri diritti sul mondo del lavoro e non solo. Andiamo invece anche al giornale, vuol dire alla pagina del giornale locale del Corriere Milanese, perché abbiamo questo titolo che è interessante, va contro tendenza. Nuovo stadio Inter Milan, quest'anello meraviglioso dei sogni, mentre Bologna sia fortunato che Virtus voglia un nuovo palazzetto, perché vogliono sempre costruire. Il municipio setto di Milano, e quindi così lo racconta il Corriere Meneghino, stadio, ora il quartiere si ribelle, troppo trebella, troppo cemento più verde, quindi non è vero che c'è questo meraviglioso sogno cittadino. I fischi dirigenti di Inter Milan: siamo qui per aprire un dialogo, non sono qui per far costruire uno stadio, altro che questo è quanto arriva. A proposito di questa cosa, poi sono le prese di posizione a favore dell'impianto. Si distingue chi? Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, l'impianto interista, sappiamo, l'impianto storico in gestione gratuita ai club per organizzare grandi eventi. La Russa ci introduce anche nella pagina, ahimè, della cultura, sempre col Libero, perché parlando di calcio, polemiche da strapazzo sul pisellone dei neri, come ha postato La Russa. La Russa ironizza su Lukaku, che sicuramente Piero sa chi è, e passa per razzista. Dice, perché sai i neri hanno i negri hanno il pisellone, si sa da che mondo è mondo, ci sono sempre i schiavisti dei campi di cotone in Louisiana, in Missouri. E allora però il Libero prende la parte con Gianluca Veneziani del colto La Russa, e allora dice: dobbiamo anche ormai arrabbiarsi Cardi, che è stato definito un pisello confuso. Questo è le cronache sportive, ahimè. Ma torniamo alle cose serie, ma non forse per certi versi meno drammatiche, ridicole. Sono i frutti velenosi delle leggi emergenziali, che alla fine della resa dei conti sono un diavolo che fa le pentole ma non i coperchi. Il Fatto Quotidiano è davvero scandalizzato, ma direi tutti i giornali sono scandalizzati. Hanno riammazzato Falcone e Borsellino, la grande chambre contro l'ergastolo ai boss. I giudici di Strasburgo intimano all'Italia di dare permessi e benefici agli ergastolani. No, la Corte di Strasburgo ha detto che non si possono fare differenziazioni tra benefici, tra chi si pente e chi non si pente, perché non siamo uno stato di auto da fè. Comunque Marco Travaglio, che è da sempre sul fronte della ghigliottina, parla della sentenza a Papello. E i toni sono estremamente enfatici. Se Totorino avesse saputo che era così semplice cancellare l'ergastolo, che non si cancella l'ergastolo in realtà, nel 92 si sarebbe risparmiato le stragi, le trattative con lo Stato, forse anche l'arresto, e sarebbe morto nel suo letto. Non era previsto, uomo di poca fede, che un giorno sarebbe arrivato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e poi in appello alla Gran Chambre a trasformare l'Italia nell'Eldorado di mafiosi terroristi. Quindi è il secondo volta che l'Italia viene condannata per questa legge, che è appunto dell'emergenza. Infatti anche Travaglio ricorda con grande orgoglio il 41, l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che esclude i benefici carcerari, permessi semilibertà, liberazione condizionale, liberazione anticipata del lavoro esterno, i condannati a vita per i delitti più gravi. Un verretto sciagurato che trasformerà il ergastolo in una burletta, farà sparire i collaboratori di giustizia e metterà in cella i boss irriducibili grazie all'aspettativa di uscire un giorno di galera. Quindi uno dice: adesso faccio il boss, così tra 25 anni di galera, di carcere duro, mi danno la semilibertà. Questo è il ragionamento di Marco Travaglio, che come sempre è dentro la simbolica vendetta sociale e non certo una concreta battaglia alle cosche mafiose. Ma non è solo quello che arriva da Travaglio, ci mancherebbe. Abbiamo Maria Falcone: tornare indietro ora significa azzerare anni di lotta ai boss. Quindi, mentre il dossier di Flavia Amabile: capiclane terroristi mai pentiti, un esercito che spera nella libertà. E beh, quando si fanno leggi si fanno fanno male, poi dopo si ottiene esattamente il contrario di quello si dichiara di volere. Allora Travaglio dice: speriamo che il governo se ne freghi di questa sentenza. Pignatone: restrizioni all'appello e più riti alternativi, così si può riformare la giustizia penale, è necessario ridurre il numero dei reati e non riversare tutto il carico dell'azienda sui giudici. E qui incominciamo a entrare nelle cose più serie. Sì, in realtà ecco, Mauro Palma nelle pagine del Manifesto fa un'analisi molto puntuale e anche insomma un po' più approfondita rispetto a come il tema viene trattato, così liquidato in maniera tranchant da altri giornali. Penso al Carlino, dove c'è un fondo del condirettore Beppe Boni, il diritto strabico, che parte così: anni fa la Corte di Giustizia Europea pretese di darci indicazioni su come etichettare la cioccolata, ora vuole insegnarci come combattere la mafia e il sovranismo ultranazionale. Non la metterei sul piano, come dire, dell'offesa alla propria sovranità. Il tema insomma è decisamente complesso. Ne parla in un'intervista anche Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti di mafie, che dice: a Strasburgo non hanno idea di cosa sia la mafia, non contesto le esigenze di umanità, ma noi siamo in una situazione particolare, bisogna decidere se le misure prese in Italia servivano o no a contrastare il fenomeno mafioso. Il rischio è che esploderanno nuove faide e che chi uscirà dal carcere vorrà riprendere il suo posto nella cosca e sarà disposto a tutto. Il Carlino poi va a guardare anche chi potrebbe uscire tra i possibili beneficiari, appunto Raffaele Cutolo, insomma ci sono nomi di primordio, Bagarella, Battisti, insomma Lioce, c'è un parterre, secondo appunto quello che scrive oggi il Carlino in questa sua scheda. Anche dalle pagine della Repubblica, il fine pena non può essere mai bocciata l'Italia. L'ex presidente della Consulta Valerio Onida va un po' controcorrente, dice: è giusto perché sono regole incostituzionali rispetto come dire agli altri che vengono vengono intervistati. L'ex presidente appunto Onida: quel tipo di pena è incostituzionale, se l'Italia non la cambia rischia nuove condanne. L'ex pubblico ministero invece di Palermo Roberto Tartaglia: la mafia è diversa dagli altri, senza carcere duro avremo meno pentiti. Veniamo allora a una larga pagina legata alla scienza, alla tecnologia o quant'altro. Quindi siamo alla Sherlock, la pagina che è legata alla scienza e alla medicina, in particolare del Fatto Quotidiano, quindi le indagini. Si parla della strage silenziosa. Benzodiazepine, l'oppio delle masse, a firma di Maddalena Oliva e Natascia Ronchetti. Che rapporto c'è tra suicidi e questa sostanza? La nostra inchiesta prosegue a Verona, l'unico centro pubblico che cura i drogati, tra virgolette, di ansiolitici sonniferi, i farmaci di fascia C più venduti in Italia. Quindi si parla tanto se fa male la cannabis light e nessuno parla appunto di questo uso e consumo d'abuso, soprattutto dei vari ansiolitici. Le persone che si rivolgono a noi mediamente assumono ogni giorno l'equivalente di 356 mg di Valium, l'unità di misura utilizzata per indicare la qualità di benzodiazepine, qualcosa come 35 fiale, spiega così il dottor Lungo Boni. Insonnia, ansia, forte stress emotivo, è così che si comincia con il Mienas, il 60% di ricoveri per dipendenza da questo farmaco, oppure il Tavor, che è Oloxanax, nome ben popolare, familiare in tante famiglie. Entra in scena il cosiddetto dottor Shopping, noi lo chiamiamo così, spiega Luigi Bartoletti, medico di famiglia e membro del comitato centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. È il paziente che per procurarsi la sua dose giornaliera fa ricorso a tutti gli scamotaggi possibili, arrivando persino a cambiare più volte il medico di base pur di raggiungere questo scopo. Quindi è davvero una condizione di grande difficoltà. Ma parlando di medicina, c'è da segnalare che c'è anche un'inchiesta sulla Johnson & Johnson, per la multinazionale, per i farmaci che sono dichiarati fuori corso due settimane fa e che adesso ha delle conseguenze di esecutive. Ma noi veniamo invece a un fatto positivo, perché ogni tanto quando siamo da questa notizia siamo ben felici. Nel 2018 l'Italia prima in Europa una legge e un piano che introducono l'approccio di genere nella medicina. Uomini e donne si diversificano nei sintomi, ma anche nella cura delle malattie, e un approccio medico che ne tenga conto risulta molto più efficace. Su questo ascoltiamo le parole di Alessandra Carré, responsabile medicina di genere per l'Istituto Superiore della Sanità. non è una nuova specialità della medicina, ma deve essere un nuovo modo di vedere tutte le specialità preesistenti, quindi un occhio in più nell'ambito delle specialità che ben conosciamo, insomma, ad oggi. Ed è importante considerare più ampiamente le differenze tra uomini e donne. Infatti sappiamo benissimo che ne esistono tante, e sono tutte quelle differenze sociali, culturali e anche economiche. Ci sono delle malattie ad oggi valutate, considerate, curate nello stesso modo per i due sessi, che in realtà presentano delle caratteristiche diverse, tenendo conto delle quali potremmo avere dei miglioramenti significativi. Sappiamo da dati statistici che tutti i principali gruppi di patologie, quindi malattie cardiovascolari, malattie oncologiche, malattie del sistema immunitario, presentano delle differenze tra uomini e donne. In generale, il sistema immunitario femminile è più efficace di quello maschile, e questo in tanti casi è un bel vantaggio, perché per le malattie infettive, per esempio, porta sicuramente un vantaggio alle donne. Nello stesso modo, mediamente le donne rispondono meglio alle vaccinazioni. Di contro, delle volte la risposta immunitaria può essere eccessiva. Questo si vede a livello delle malattie autoimmuni, cioè quelle patologie in cui un eccesso di risposta del sistema immunitario ci si rivolta contro e aggredisce qualcuno dei nostri organi. Ci sono delle malattie di questo tipo che si presentano, in media naturalmente, sono tutti valori statistici, in un uomo contro 10 donne, contro 8 donne, cioè c'è uno sbilanciamento veramente significativo. Il primo caso che mise in evidenza la necessità di una cura di genere è stato però nelle malattie cardiovascolari. Negli Stati Uniti una cardiologa si rese conto che l'approccio dei medici nei confronti delle donne affette da patologie cardiovascolari era meno attento rispetto all'approccio in situazioni simili nei confronti degli uomini. Questo per l'errata idea che le malattie cardiovascolari, l'infarto in particolare, siano un problema maschile, cosa che, se andiamo a vedere i numeri, non è assolutamente vera. Anzi, in particolare da una certa età, nell'età un po' più avanzata, dopo la menopausa, le donne possono andare incontro all'infarto e comunque hanno una mortalità per patologie cardiovascolari più alta degli uomini. Tra l'altro, l'infarto, che negli uomini sappiamo, in parte è vero, in parte no, ma comunque essere associato al classico dolore al braccio sinistro, nelle donne spesso si presenta con sintomi piuttosto diversi, a livello dello stomaco per esempio, ansia, mancanza del respiro, e quindi non è così ovvia la ricerca della patologia a livello cardiaco. Al pronto soccorso possono essere indirizzate verso il reparto di gastroenterologia piuttosto che verso la cardiologia, perdendo molto tempo, e cosa che senz'altro poi si riflette sul risultato che si può ottenere, sulla prognosi, sulla qualità di vita successiva. A fronte di questo c'è l'idea che ognuno di noi ha di quanto quel determinato sintomo ti debba condurre al pronto soccorso, o comunque dal medico, o comunque a uno screening più attento in tempi più ravvicinati. E ancora una volta, se andiamo a vedere gli studi clinici per l'approvazione di nuovi farmaci, i dati statistici, mediamente i farmaci, parlo di farmaci per esempio oncologici, cioè farmaci significativi, hanno più effetti collaterali avversi nelle donne rispetto agli uomini. Tutte queste cose sono da rivedere, perché il farmaco giusto potrebbe ottenere lo stesso risultato di efficacia con minori effetti collaterali. Con il tempo dovremmo arrivare proprio a questo, a valutare in modo corretto incidenza delle malattie, sintomi, risposta ai farmaci nei due sessi. rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. E ripartiamo dal, anzi continuiamo sulla scienza, con il Nobel della fisica ai cacciatori di mondi alieni. L'Accademia di Svezia, dice il Carlino, ha dato il Nobel della fisica a tre scienziati: il canadese James Peebles, gloria della cosmologia, padre della teoria del Big Bang, poi agli scienziati svizzeri di Ginevra, Michel Mayor, 77 anni, il suo ex allievo Didier Queloz, che hanno scoperto il primo esopianeta, cioè un pianeta al di fuori del nostro sistema solare orbitante attorno a una stella simile al nostro Sole. Nel frattempo gli scommettitori puntano su Greta Thunberg per il premio per la pace e per il premio per la letteratura invece si punta su una donna, perché dopo gli scandali sessuali che hanno travolto l'Accademia di Svezia, domani saranno assegnati due riconoscimenti per la letteratura. Il capo del nuovo comitato ha postato un video in cui spiega che il premio deve essere meno eurocentrico e più orientato verso le brave scrittrici, che quindi sembra una sorta di investitura già prefigurata. Ma a proposito di scienza, c'è un'intervista a una ricercatrice di Microsoft dal giornale, Mary L. Gray, che dice: attenti, l'intelligenza artificiale non è più furba di noi, è puro software. Se si pensa che l'intelligenza artificiale sia più intelligente delle persone anziché utile a esse, allora si infilerà nei nostri lavori, perché sottostimiamo quello che più ci serve: la libertà di esplorare e valutare la strada migliore per noi. E quindi la discussione appunto è su come le nuove tecnologie incidano appunto sul lavoro del futuro, e dice appunto questa ricercatrice di Microsoft: le tecnologie ci danno molto, ma noi diamo troppo credito a loro. Anche la stampa ricorda il primo Nobel ai fisici che danno la caccia agli alieni. Per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante: esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel letto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva: extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Ma niente, pure alla fine della canzone Finardi torna a casa dalla mamma e dal papà. Ma veniamo invece alla Ester, i blitz in Siria, Teheran stoppa Erdogan, quindi l'Iran non ci sta a questa invasione curda nel territorio curdo. Trump cambia idea, non ritiro dei soldati. In realtà poi Trump fa la faina perché sposta le truppe in modo da lasciare i corridoi l'invasione turca. Ma su Trump che dice: occhio, perché se voi invadete l'Iran, la Siria, ci sarà una guerra economica, e lo dicono alcuni giornali come il Fatto Quotidiano, economica, la guerra tra Trump ed Erdogan. Stamattina c'è la risposta della Turchia: il nostro messaggio è chiaro, la Turchia non agisce sotto minaccia, ma minaccia gli altri, viene da dire. Dunque questo è il vicepresidente turco Okay che risponde sia agli americani che all'Iran, che dice: noi facciamo quello che ci pare. Infatti dice: la Turchia è pronta per l'attacco, Trump isolato da sicuri sui curdi. Il presidente USA manda messaggi contraddittori, invita Erdogan per il 13 novembre. Ma la Ankara è l'assalto dei curdi in tre fasi, questa è la previsione di Giordano Stabile dalla stampa. Rischio scontro tra Assad sull'Eufrate, quindi coinvolgerebbe ancora di nuovo l'esercito siriano. Ed è curioso che c'è anche Trump ha un problema interno, segnala la stampa, la rabbia degli evangelici, queste gruppo confessione protestanti della ricchezza che hanno sempre appoggiato comunque a prescindere Trump. Però a questo punto proprio Paul Robertson, il famoso potente reverendo che parla in TV a tanti finanziamenti dai fedeli, dice che consentendo in mondo curdo il massacro di cristiani curdi da parte dei turchi, il presidente rischia di perdere il mandato del paradiso. Questo è il problema dell'Islam, che naturalmente da destra, se è possibile, perché il mondo è curioso, attacca Trump. Questo è. Ma veniamo invece a sinistra, senza virgolette, con Dalbor Issa, comandante dell'IPG, questo battaglione di donne che difendono la libertà e la democrazia del paese, oltre che il popolo curdo, non solo quello, anche gli yazidi, gli assiri, eccetera. La comandante curda: l'Italia ci aiuti, io torno a combattere con la mia brigata. E quindi si rischia davvero di lasciare ancora una volta soli, per l'ennesima volta, il mondo della resistenza curda. Nel frattempo c'è anche un segnale sul fronte economico: l'offensiva di Erdogan rischia di aggravare la crisi economica turca, perché ieri dal contropiano abbiamo visto che c'era anche una manovra di Erdogan per agganciare il partito kemalista, allontanarlo dall'HDP curdo, perché i kemalisti sono anti-islamici, quindi anti-curdi, quindi ci sarebbe una riunificazione per un Erdogan che ha perso le elezioni a Istanbul. Però c'è l'altra parte che segnala oggi Riccardo Sorrentino: il PIL del 2019 potrebbe calare del 2,5%, non è poco, l'inflazione del 7,5% e la lira sotto pressione, la lira turca. Comunità internazionale ostile, gli investitori potrebbero ritirare il credito. Sì, parità e tolleranza, il modello curdo finisce nel mirino di Erdogan, dice l'inviato a Istanbul Marco Ansaldo. Kurdistan turco e Rojava siriano sono esperimenti sociali unici nella regione, ma un'offensiva militare li spazzerebbe via. Nel frattempo l'ambasciatore italiano ad Ankara, Gaiani, è stato convocato dal Ministero degli Esteri turco, irritato per la cittadinanza onoraria concessa al fondatore del PKK, Öcalan, da parte di Berceto, piccolo comune in provincia di Parma. E anche dal Manifesto: traditi dagli Stati Uniti, i curdi ora guardano a Damasco, nel nord-est della Siria, ci si prepara al peggio. E allora noi ci salutiamo per questa giornata di lettura dei giornali, parlando proprio di Turchia, perché sentiamo con la nostra Sara Spimpolo, con Giuseppe Acconcia, docente all'Università di Padova, su questo intrigo internazionale. Sentiamo le sue parole. Considerando la politica interna turca, da una parte possiamo dire che questo attacco, questa dura presa di posizione da parte di Erdogan arriva dopo aver perso dei comuni importantissimi nelle elezioni municipali. Pensiamo al comune di Istanbul, pensiamo al comune di Ankara. Per esempio Istanbul è stato fortemente conteso dalla leadership di Giustizia e Sviluppo, dalla leadership dell'islamismo politico, del partito di Erdogan AKP, che voleva in ogni modo mantenere il controllo sulla città di Istanbul, che poi è stata considerata dallo stesso Erdogan un po' la roccaforte, che una volta persa apre le porte a perdere anche il governo del nazionale. Quindi evidentemente Erdogan teme di diminuire i consensi all'interno del paese, quindi agisce con la tecnica della guerra, che poi è stata sempre la sua tecnica. Pensiamo al 2015, quando sono state messe sotto assedio le città di Nusaybin, le città del Kurdistan turco, che sono state bombardate, distrutte alcune di queste, e lo stesso quello che è stato fatto con Kobane, il fatto di lasciare i confini turchi aperti al passaggio di armi che poi sono arrivati allo Stato Islamico, e quindi fare una guerra nei confronti dei curdi è diventato un po' la strategia politica di Erdogan per ottenere il consenso dei nazionalisti turchi. E sicuramente una parte di questa strategia viene ripetuta in questo caso, cioè quello di tentare di rinsaldare, di saldare le fila, di riportare il sostegno al partito AKP, di riportare il sostegno alla stessa figura di Erdogan, un sostegno che è stato perso alle recenti elezioni municipali. Quindi di sicuro da una parte questa lettura ha una sua verità, dall'altra le opposizioni politiche in Turchia purtroppo sono estremamente deboli. Pensiamo alla più importante tra le opposizioni politiche, che è quella di HDP, cioè del Partito Democratico dei Popoli, che ha come leader politici Selahattin Demirtaş, cioè Figen Yüksekdag, che sono queste due figure così importanti nel panorama politico della sinistra filo-curda in Turchia, che sono stati arrestati, si trovano entrambi in prigione. Insieme a loro sono decine i parlamentari curdi che si trovano in prigione. Quindi evidentemente queste figure politiche che criticano duramente l'azione di Erdogan, hanno ancora una volta criticato e messo in luce la fallacia della politica estera di Erdogan, le sue attitudini militaresche, la sua azione che è quella di un kemalista che è vicino a un populista che vuole soltanto acquisire consenso elettorale, ricordando poi in quali condizioni versano Ocalan e versano gli oppositori politici in Turchia, soprattutto gli oppositori curdi. Però purtroppo questa parte politica ha un spazio molto limitato. Tutte le leggi che sono state approvate da HDP, tutti i provvedimenti che sono stati sostenuti da HDP sono stati poi bloccati dal fatto che molti di questi parlamentari sono stati arrestati. Ricordiamo omicidio eccellente, ricordiamo il bavaglio che è stato messo a tanti media curdi, quindi evidentemente questa parte politica ha molta difficoltà ad avere un impatto, però nonostante questo nelle varie tornate elettorali, perché sappiamo che tra il 2017 e il 2018 in Turchia si è votato tantissimo per il referendum costituzionale, per le nuove elezioni, comunque HDP ha ottenuto più del 10% e quindi continua ad essere nel Parlamento turco, e questa è una delle più importanti novità della storia politica turca, perché finalmente un partito filo curdo ha lo suo spazio nel Parlamento turco. L'altro gruppo di opposizione, cioè i repubblicani, come sappiamo CHP e quindi il partito repubblicano che fu di Kılıçdaroğlu e che poi ha astenuto Imamoglu, il sindaco di Istanbul, e che sostiene anche insieme ad altri partiti una parte dell'opposizione turca, ha sempre assunto un atteggiamento di opposizione leggero, soft, e quindi anche in questo caso, pur criticando l'azione di Erdogan, non va molto oltre. Ricordiamo che molti dei nazionalisti che votano per Erdogan e tanti dei nazionalisti che vengono un po' da tutte le aree politiche che sostengono la presidenza Erdogan hanno sempre sostenuto, hanno sempre appoggiato le campagne di Erdogan contro i curdi, proprio per questo senso di appartenenza nazionale. Addirittura ci sono alcuni curdi che sostengono l'azione di Erdogan, quindi evidentemente c'è una parte nazionalista e turchi duri e puri che vedono con grande preoccupazione la costruzione di un territorio autonomo curdo in Rojava, e quindi in qualche maniera fanno di tutto. Pensiamo per esempio a MHP, cioè alla destra, che è quella che ha più sostenuto l'operato di Erdogan e quanto ha fatto campagna elettorale sulla presenza siriana in Turchia. Molti di questi politici puntano tantissimo sulla critica nei confronti della presenza di rifugiati siriani in Turchia, 3,6 milioni sono un numero altissimo. Pensiamo a quanto questo sia stato importante per Erdogan per negoziare l'accordo con l'Unione Europea, che poi ha portato 6 miliardi di euro in Turchia, che poi ha permesso alla Turchia di avere un ruolo centrale nella regione. E tanto è vero che Turchia e Germania, lo stesso presidente Erdogan è andato più volte a Berlino e Merkel ha più volte aperto al ruolo centrale della Turchia nella gestione dei flussi migratori, MHP ha fatto tantissimo leva sulla presenza dei propri siriani. Quindi pensare che questo progetto di Erdogan abbia come scopo, anche se non è lo scopo principale, perché lo scopo centrale è quello di limitare la presenza dei curdi nel nord della Siria, di alleggerire la presenza di siriani in Turchia, evidentemente fa grande gola a tutta la politica di destra, dei nazionalisti eccetera in Turchia, che quindi ha puntato tantissimo su questo tipo di approccio che viene da Erdogan.